Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato con le riviste, italiane e straniere. Andiamo alla ricerca dei temi, delle tendenze, degli articoli, delle curiosità che si possono trovare sulla stampa non quotidiana. Allora, sabato tradizionalmente giorno di spese, anche se a dir la verità in questo periodo magari si preferisce più che altro andarsene dalle città, fare qualche anticipo di vacanza, però è appunto tradizionalmente un giorno dedicato alle spese, alla spesa più spesso. E allora cominciamo parlando proprio di spesa, perché sull'Espresso questa settimana Carlotta Magnanini scrive un lungo articolo dedicato al cambiamento degli stili di vita. Welcome to Mall City. Il mall è il centro commerciale in inglese, benvenuti alla città del centro commerciale, ma in questo lungo articolo appunto la Magnanini spiega che i centri commerciali in genere, quelli che siamo abituati a incontrare, a frequentare, stanno mutando pelle, stanno adeguando l'offerta, insomma non sarebbero più adeguati anche al nostro piacere di fare la spesa, di comprare qualcosa, o se volete usare un termine inglese, di fare shopping. E infatti, come già si spiega nel sommario di questo articolo dell'Espresso, si dice che gli open space stanno diventando dei luoghi di incontro, che gli outlet, quelli posti appunto dove si può trovare la merce a prezzo molto ridotto, si pongono come centri relazionali e spazi emozionanti al posto di anonimi negozi. Qui queste tendenze naturalmente di marketing, di costume, vanno sempre un po' decifrate, poi magari ognuno di noi nell'esperienza personale ritrova qualche traccia di queste discussioni, che sono ovviamente molto generalizzate per poter dar conto o tenere dentro tutte le varie questioni che vengono agitate. Lo shopping, insomma, spiega la Magnanini, rivela un consumatore nuovo, un consumatore che gioca con le merci, che sa prendersi del tempo e che chiede di imparare. Lo chiamano, lo apprendo sempre da questo articolo dell'Espresso, Retail 3.0, quindi utilizzando appunto il frasario dell'informatica per dire che stiamo superando il concetto del centro commerciale così come eravamo abituati a conoscerlo. Che cosa sta succedendo? Che si sono accorti appunto gli studiosi di marketing, coloro che si occupano del come presentare le merci per poterle vendere, che il centro commerciale, nel senso del luogo appunto dove confluiscono più negozi, in sé per sé sta mostrando la corda, ucciso dai costi, si legge appunto su questo articolo, dalla ripetitività dei brand, cioè dei marchi che vengono proposti, e anche dall'artificiosità dell'atmosfera. In effetti il centro commerciale è un po' un non luogo, come si dice, cioè è quasi uno spazio a parte. Tutto questo a un consumatore evoluto non basta più, e quindi si sta cercando di modificare l'offerta per adeguarla, e naturalmente per adeguarla alle nuove richieste, ai nuovi gusti di noi altri consumatori. Conferma un docente di sociologia dei consumi a Modena, Vanni Codeluppi, sempre nell'articolo della Magnanini: il boom dei centri commerciali è stagnante, anche perché la società sta cambiando. Gli italiani, tra gli europei, sono i più anziani. Ci sono sempre più divorziati, vedovi, single, che per fare la spesa cercano delle dimensioni da quartiere, botteghe in cui creare delle relazioni. E allora cosa se ne fa un singolo, chiede provocatoriamente, di una specie di astronave isolata e fuori città? Ecco, allora cosa si sta cercando di fare, o almeno cosa stanno cercando di proporci, poi magari, ripeto, qualcuno se ne sarà già accorto di questi mutamenti, qualcun altro meno. L'obiettivo è quello di creare dei souk cittadini ibridi, che sono a metà tra la boutique, il drugstore, l'emporio specializzato, e sono insomma dei negozi un po' più caratterizzati e, in una parola, vorrebbero essere quasi più emozionanti per chi poi si reca a comprare. Addirittura, si riferisce un'altra parte dell'articolo, lo scopo è creare degli spazi in cui la gente possa andare in vacanza per un'ora e naturalmente essere così meglio disposta alla spesa. Poi naturalmente ci sono le condizioni economiche, perché quando l'economia è stabile, spiega un altro testimone sentito appunto dalla Magnanini, fare acquisti negli outlet è uno svago, ma in tempi di crisi diventa una necessità. In effetti questa recessione ci ha svegliato, ci ha educato a scelte più intelligenti. Allora, gli spazi sono simili, però mantengono il concept, cioè potremmo dire l'atmosfera, l'indirizzo, la tendenza del brand, del marchio di riferimento, tanto che finiscono per assumere l'aspetto di vie cittadine, stile via Monte Napoleone. Questo il cambiamento che sta attraversando appunto il mondo dei centri commerciali per adeguarsi ai nuovi gusti dei consumatori, così come lo riferisce l'Espresso di questa settimana. E visto che parliamo di spesa, ricorda Vanity Fair in un breve passaggio di una pagina interna che sono quasi passati 10 anni dall'ultima banconota stampata in lire. Perché dovete sapere che il 27 luglio dell'anno 2000 la Banca d'Italia stampò l'ultima banconota in lire, era un taglio da 5.000 lire. Per chi non, per i più giovani che farebbero fatica a fare la conversione, possiamo dire che è un po' più di 2,50 euro. Un pezzo di storia italiana finito con l'euro, la tipo 1985, così si chiamava dall'anno di emissione, aveva il ritratto del compositore Vincenzo Bellini, era verde, penso che molti di voi la ricorderanno bene, faceva parte delle banconote cosiddette colorate, c'erano le 10.000 lire blu, le 50.000 lire fucsia. Al centro c'è la firma del governatore di allora, naturalmente Carlo Azeglio Ciampi. Oggi queste 5.000 lire, lo precisa anche Vanity Fair, valgono 2,58 euro, e fino al 29 febbraio del 2012, tra l'altro, si possono ancora cambiare, se ne trovate qualcuna nei cassetti, negli sportelli però della Banca d'Italia. Restiamo su Vanity Fair e parliamo ancora di spesa, perché si continua appunto a parlare di soldi di spesa. C'è il sondaggio di Nando Pagnoncelli dedicato ai nostri consumi per quanto riguarda gli alimentari. Il titolo è un po' forte, perché dice "A dieta per la crisi", cioè la domanda che si è fatto Pagnoncelli, che ha posto al suo campione, è se si sono modificate le abitudini di spesa per gli alimentari in conseguenza delle condizioni economiche. Devo dirvi che poi in realtà lo svolgimento di questo sondaggio, i risultati che qui vengono presentati su Vanity Fair, sono confortanti in qualche modo, perché anche se è vero che il 51% dice sì, ho modificato le mie abitudini di spesa, però si mantiene un 49%, quindi ci dividiamo esattamente a metà tra chi ha cercato di reagire, di modificare i propri acquisti di alimentari in conseguenza della crisi, e chi invece non ne ha sentito il bisogno. I cambiamenti maggiori, spiega Pagnoncelli, si registrano ovviamente per le persone a più basso reddito, però anche la popolazione attiva, operai, esecutivi in genere, i lavoratori autonomi, i commercianti, gli artigiani, hanno comunque mostrato una tendenza a una maggiore attenzione, se non altro. Dichiarano di aver modificato di più le loro strategie di acquisto i residenti delle regioni meridionali e delle isole rispetto a quelli del nord. Questo è il primo dato e sembrerebbe davvero poco confortante. Risolleva un po' il morale, in qualche modo, proseguire nelle domande che sono state fatte, perché si riducono un pochino queste percentuali. Il totale del campione, rispetto al totale del campione, solo 1 su 3 ha detto sto più attento agli sprechi, compro solo quello che mi serve. 1 su 4 ha spiegato di privilegiare, di scegliere soprattutto i prodotti in offerta, e gli altri di scegliere proprio posti dove costa meno, però qui scendiamo già a una percentuale del 20%, quindi un cambiamento visibile indubbiamente, non ancora generalizzato, o comunque non generalizzato, ancora circoscritto. Più che altro si potrebbe convenire con quanto si leggeva prima sull'Espresso: in tempi di recessione, di difficoltà, diventiamo tutti molto più attenti anche al singolo acquisto, e allora anche gli alimentari non sembrano fare eccezione, così come riferisce Pagnoncelli questa settimana su Vanity Fair. Peraltro c'è una piccola notizia che forse vale la pena di legare a questa. È una notizia che ho trovato non su Vanity Fair questa volta, ma su Donna Moderna, perché mentre parliamo di appunto modificare i comportamenti d'acquisto, stare più attenti a quello che compriamo, andare a cercare i posti dove si spende meno, però nella pratica risulta che sprechiamo anche un sacco di cibo. Forse qualcuno di voi ha visto già questa segnalazione, questi numeri sui quotidiani, li riporta Donna Moderna: buttiamo tantissimo cibo. C'è una campagna proprio per il 2010 che è intitolato all'anno contro gli sprechi. Ogni anno ci sono 4.000 tonnellate di alimenti acquistati da noi italiani, che finiscono in discarica. Ci sono 150 milioni di miliardi di calorie che vengono gettate nella spazzatura dagli statunitensi, 6,7 milioni di tonnellate di cibo sprecato ogni anno in Gran Bretagna. Il 25% è la quantità media di cibo che viene acquistato e cestinato da una famiglia svedese, e il 50% è l'aumento dello spreco alimentare nel mondo occidentale, calcolato dal 1974 a oggi. Quindi davvero dobbiamo ancora imparare a risparmiare per davvero. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Visto che abbiamo appena sentito le informazioni sul traffico, io volevo restare in tema perché Famiglia Cristiana questa settimana si occupa di una importante campagna di sensibilizzazione per l'attenzione alla guida, una campagna che è stata avviata appunto dalla Fondazione ANIA, che è la onlus delle compagnie di assicurazione, e naturalmente una campagna per prevenire per quanto possibile i comportamenti rischiosi alla guida. Trovate tutti i dettagli, ce ne sono anche di quelli che non vorrei leggervi perché molti di voi, mi immagino, stanno guidando, quindi li diamo per acquisiti, però ci sono le cose interessanti sulle distrazioni che magari possiamo sottovalutare. Allora, ad esempio, scopro appunto sfogliando Famiglia Cristiana che i nostri tempi di reazione quando guidiamo si allungano, aumentano del 50% se mentre guidiamo usiamo un dispositivo elettronico in genere, quindi non è solo il classico canonico telefonino, che naturalmente è vietato utilizzare mentre si guida se non si ha l'auricolare o il viva voce. Ci sono poi dei dati che, come dire, ci aiutano a evitare questi comportamenti, perché se stiamo andando a 110 all'ora, chi parla al cellulare fa 14 metri in più per riuscire a fermarsi rispetto a una persona che non sta parlando al cellulare. 14 metri non sono una distanza trascurabile. La distanza di arresto per chi proprio sta guidando, parlando con il cellulare in mano, viene calcolata in circa 39 metri. E ovviamente questo aumenta il rischio di incidenti. Però, come si riferisce, non sembra che questi dati abbiano ancora sensibilizzato moltissimo, perché leggo sempre da questo lavoro di Pino Pignatta su Famiglia Cristiana di questa settimana, ci sono addirittura di quelli che si fanno taroccare il DVD d'automobile, che esce dalla casa per smettere di funzionare a 10 km all'ora, che sono già comunque una velocità, e modificando quindi questo DVD si trova il modo di farlo girare anche mentre uno magari sta andando a 140 all'ora, e quindi utilizzarlo come videogioco, che naturalmente questo non ha bisogno di commenti per far capire che è un comportamento rischioso. Una notizia che va tenuta presente: non va sottovalutato l'effetto della guida con l'auricolare, cioè usando il cellulare con auricolare, perché anche la distrazione mentale può dare origine a situazioni pericolose. Gli esperti dicono che parlare al telefonino provoca un particolare effetto cerebrale che si chiama inattention blindness, cioè cecità dovuta a disattenzione. In qualche modo uno è più concentrato su quello che sta ascoltando che non su quello che sta vedendo della strada, e quindi questo può rallentare i tempi di reazione. Naturalmente il telefonino alla guida è la distrazione più ricorrente, questo viene testimoniato in tutti i paesi, ci sono le ricerche statunitensi riferite appunto da Pino Pignatta. Le persone che più sono indisciplinate da questo punto di vista sono quelle tra i 30 e i 49 anni, che ne fanno maggiormente uso. Ci sono poi dei dati che hanno cercato di mettere in correlazione quanti sono gli eventi infausti che possono essere riferiti al cellulare. Vi assicuro che sono molto alti, si parla di un 28%. Quindi, leggendo il tutto con, ripeto, molta attenzione per evitare di citarvi cose sgradevoli, però devo dire che queste pagine di Famiglia Cristiana ci invitano a essere particolarmente attenti. Magari se proprio dobbiamo fare o ricevere questa telefonata, ci possiamo anche fermare, possiamo anche accostare. E restando su Famiglia Cristiana, invece, un dibattito che riguarda in qualche modo il malo uso della strada, ma qui dovuto davvero a comportamenti non così diffusi, non così di tutti i giorni, ma assolutamente illegali. Qual è la notizia? Che la provincia di Bolzano ha deciso di far addebitare il costo del soccorso, circa 200 euro, a chi si ubriaca anche in caso di urgenza verificata. Chi verrà trovato poi con tasso alcolemico superiore all'1,5 per mille pagherà il trasporto. Allora hanno chiesto a Gustavo Pietropolli Charmé, che è uno psicoterapeuta, e a Anna Oliviero Ferraris, che è una psicologa, se è giusto che chi beve e poi cerca soccorso o anche sulla strada mentre sta guidando o anche in un locale debba essere poi costretto a pagarsi le spese del soccorso. In realtà i due esperti hanno due pareri assolutamente opposto. Secondo Anna Oliviero Ferraris è giusto, perché dice: sono abbastanza d'accordo, è un modo possibile per scongiurare gli abusi di alcol, specialmente tra i giovani. Non dobbiamo però fare l'errore di pensare che questo da solo ci possa bastare. Comunque la società, attraverso questo provvedimento, dà un messaggio di disapprovazione a chi si sbronza, è un messaggio implicito ma chiarissimo. Il problema principale è che società civile e famiglia se ne infischiano di ciò che fanno i giovani quando escono di sera, e quindi almeno questo tipo di messaggio, far pagare l'ambulanza se poi uno si sente male, magari si mette alla guida dopo aver bevuto, è un segnale controcorrente che la collettività manda a chi esagera irresponsabilmente con l'alcol. Di parere assolutamente opposto in questo faccia a faccia che è stato curato da Antonio San Francesco è invece Gustavo Pietropolli Charmé, uno psicoterapeuta, che dice: volendo fare i moralisti possiamo dire che uno che beve e poi sta male se l'è cercata, però far pagare l'ambulanza a una persona che magari va in coma etilico mi sembra profondamente sbagliato. Se vogliamo dissuadere i ragazzi dal fare uso di droghe e alcol, misure come questa servono a poco, così come serve a poco l'idea di aumentare il prezzo delle sigarette o degli alcolici. Non risolvono il problema. Multe e proibizionismo, secondo Charmé, non sono la strada migliore. Quello che invece bisogna fare è sensibilizzare molto ampiamente e costantemente il pubblico, specialmente i più giovani, ed evitare queste misure che lui definisce misure bizzarre, come quella adottata dalla provincia di Bolzano. Cambiamo completamente argomento, parliamo di musica questa volta, torniamo su Vanity Fair, perché su Vanity Fair c'è una bella intervista per, diciamo, chi magari non è più proprio giovanissimo tra i nostri ascoltatori, perché è un'intervista a Phil Collins. Ora, Phil Collins, come sapete, fu la colonna dei Genesis insieme a Peter Gabriel. Quando poi i due si separarono, l'uno prese una strada da solista, l'altro restò nel gruppo, e quindi insomma è una figura che in qualche modo ha segnato altri anni di molti di noi, compreso chi vi parla. E Phil Collins ha rilasciato questa intervista. Phil Collins attualmente ha 59 anni, apprendiamo da Vanity Fair, è diventato nonno, gioca a golf, vive tra le foto delle ex mogli, ne ha tre, e purtroppo ha un acciacco alle mani che gli impedisce non ancora di suonare, però lo limita abbastanza nella vita di tutti i giorni. Allora vi leggo qualche cosa. Tutto questo perché accade? Beh, naturalmente quando si parla di un musicista, quando si parla di un artista conosciuto, questo tipo di uscite sui settimanali, sui periodici, non è mai casuale. Accade perché Phil Collins sta tornando al suo pubblico con un disco, E che si chiamerà Going Back, il disco è un concerto, è una cosa molto particolare perché lui dedica questo disco, ha voluto dedicare questo disco ai capolavori della Motown, cioè la casa discografica di Detroit che negli anni 60 aveva lanciato Diana Ross, Marvin Gaye, Jackson 5, Stevie Wonder e così via, e lui ha deciso di reinterpretare appunto alcuni dei successi di questi anni. Curiosa davvero la domanda d'esordio, la frase d'esordio di Phil Collins all'intervistatore, che è Luca Bianchini, perché gli chiede subito come sta Laura Pausini, gli chiede se si è sposata, e naturalmente la curiosità di Bianchini che chiede a Collins, ma non ancora, però voi come vi siete conosciuti? Lui dice, mi sono innamorato della sua voce, è delicata, profonda, pura, è una rarità. Quindi abbiamo duettato insieme diverse volte, non vedo l'ora di averla al mio fianco a ottobre per una serata di beneficenza. Quindi c'è questo legame artistico tra Phil Collins e Laura Pausini. Dopodiché Collins racconta un po' della sua attuale vita, una vita che appunto è molto sempre centrata sulla musica, anche se appunto ci sono delle difficoltà legate appunto al suo stato di salute. Gli chiede Bianchini, so che ha qualche difficoltà a muovere le dita delle mani e quindi penso sia frustrante avere in casa il piano o la batteria e non poterli suonare. Lui dice, no, in realtà la batteria, se mi fascio bene le mani con un nastro, riesco a suonarla anche se non come vorrei, però il problema è che faccio fatica a fare cose più quotidiane come affettare il pane, rischio anche di farmi del male. Queste difficoltà mi preoccupano di più, chi se ne frega se poi non riesco a suonare. Questo e molto altro su Vanity Fair in questa intervista a Phil Collins, che sta appunto preparando questa uscita Going Back, un album in cui ricanta canzoni della Motown, dei successi degli anni 60. Con questo il tempo a nostra disposizione per questa mattina è concluso. Io vi do appuntamento domani mattina, se volete, sempre con Magazine 24, altri articoli, altre riviste, di altri consigli per la lettura della domenica. Ringrazio Valeria Bernardi questa mattina in regia, grazie anche a Margherita Aina e a Luca Rinaldi che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete potete risentire questo programma come tutti i programmi di Radio 24 sul nostro sito www.radio24.it. Grazie e a domani.